Ci siamo? Allora, buongiorno a tutti. Vi ho avvertito che domani cominciamo le lezioni di recupero. Adesso vediamo quanto sarà necessario recuperare. E quindi sono dalle 10 alle 12. E se non sbaglio, 10-12, ricordate, un orario molto diverso da questo. E se non ricordo male dovrebbe essere la T35, sì. T35. Ecco. No, volevo sapere se gli studenti del primo anno devono fare tutti due ore oppure il corso di Baudelaire ha un'ora aggiunta, tutto qua. Quindi è certo, è ovvio. No, vabbè. Sì, perché la seconda ora è riservata a quelli che fanno corso. Sì, sì. È un giorno in più che viene diviso in due parti, no? Chi per fa Baudelaire, chi per quelli che fanno Proust devono anche fare evidentemente Baudelaire, insomma, devono stare a tutte le due ore, semplicissimo. Chiaro, no, il concetto, eh? Se non si capisce questo, siamo malmessi. Allora, la poesia che oggi consideriamo di Baudelaire, la numero 22, il titolo è Parfum exotique. Forse consiglierei di aprire un pochino la finestra, che siamo in tanti. Che succede? Poco poco, ecco, così va bene, grazie. Leggiamo la poesia. Quand les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux. Je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux, des hommes dont le corps est mince et vigoureux, et des femmes dont l'œil par sa franchise étonne. Guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts, encore tout fatigué par la vague marine. Pendant que le parfum de verre tamariné qui circule dans l'air et m'enfle la narine se mêle dans mon âme au chant de marinier. Quando, con gli occhi chiusi, in una sera calda d'autunno, respiro l'odore del tuo seno ardente, vedo svolgersi due rive felici che abbagliano i fuochi d'un sole monotono. Un'isola pigra dove la natura dà alberi strani e frutti saporiti. Uomini il cui corpo è snello e vigoroso. Donne il cui occhio abbaglia per la franchezza. Guidato dal tuo odore verso climi fascinosi, vedo un porto stipato di vele e di alberi, ancora spossati dall'onda marina, mentre il profumo dei verdi tamarindi che circola nell'aria e mi empie le narici, si mescola nella mia anima al canto dei marinai. Questa è una assolutamente, se così possiamo dire, tipica poesia di Baudelaire, e che non presenta eccessive difficoltà. Baudelaire è uno scrittore di scrittura apparentemente facile, cioè diversamente per esempio da poeti come Rimbaud, stando naturalmente alla Francia, o Mallarmé, che invece sono estremamente, specialmente Mallarmé, estremamente ardui da decifrare, insomma. Ma con mezzi assai semplici, quindi con una lettura assai semplice, riesce a dare delle straordinarie profondità che spesso alla critica sfuggono. Per cui se voi andate a vedere della critica su Baudelaire, sarete colpiti da vedere spesso delle franche sciocchezze. Guardavo ieri, per esempio, su una poesia che faremo fra poco, il cui incipit celeberrimo è Je t'adore, un verso d'amore, Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne, ti amo come la volta notturna. Il commentatore, che fra l'altro era uno dei nostri, diciamo così, ma io non ho mai ritenuto maestro, per la verità, era uno dei capi alla nostra scuola, insomma, anzi l'ho sempre ritenuto notevolmente, insomma, mediocre, ecco, diciamo per eufemismo. Ma lui dice, la volta notturna, ci sono varie interpretazioni sulla volta notturna, che significa che uno ami una donna come la volta del cielo. Poi si cita il Pizzurusso, che è stato un mio grande amico, che è mancato, era un accademico dei licei, uomo di grande intelligenza, che però in questo caso non dava prova di eccessiva acribia, insomma. Io ero con lui affettuoso e rispettoso, lui era con me devoto, se così posso dire, nonostante la grande differenza di età, ma qui diamo a Cesare quel che è di Cesare, qui non mostrava. Allora lui diceva che la volta notturna, perché l'uomo, la donna è paragonata alla volta notturna? Perché la volta notturna è uno scrigno di segreti, e su questo non v'è dubbio, e quindi lui vuole esprimere il fatto che la donna è uno scrigno di segreti. Queste esercitazioni capillari di fronte all'empito poetico sembrano molto ingenue, nonostante poi si tratti di studiosi a volte, come nel caso del summenzionato Arnaldo Pizzurusso, di vaglia. Bisogna capire che nella poesia si entra anche con quella facoltà intellettiva che va, starei per dire, anche al di là dell'intelligenza, o perlomeno è intelligenza in un senso assai più ampio, che è l'intuizione. Cioè è del tutto normale che un uomo rivolgendosi, un poeta rivolgendosi alla donna amata, si rivolga come paragone a qualcosa di ampio, di meraviglioso, come è certamente la volta stellata, insomma, no? Leggere una poesia di Baudelaire diventa difficile, quindi, perché bisogna sapere estrarre, come dire, i sughi poetici, l'atmosfera, senza a volte soffermarsi troppo sui dettagli. Non era cosa che lui faceva. Questo non è vero in assoluto, naturalmente, non per tutti i poeti. Per esempio, in poeti come, cito uno, insomma, come Apollinaire, poniamo, invece il dettaglio viene particolarmente curato, ma noi non possiamo leggere tutto allo stesso modo. Non possiamo leggere Petrarca come leggeremmo Mallarmé, fin qui è facile capirlo. No, bisogna sapere entrare ogni volta nell'humus, nella personalità dello scrittore, del poeta, Questo è importante. Vi ho fatto questo piccolo preambolo per dirvi adesso che cosa si può dire di questa poesia. Una poesia che apparentemente è banale, perché parla di un contatto amoroso, di vicinanza, fra il poeta e la donna amata, e di immagini esotiche che questo contatto susciterebbe. E noi potremmo, in un rigo introduttivo, limitarci a dire questo e non dire nient'altro, ma naturalmente non avremmo né capito né fatto capire nulla della poesia. Quindi conviene andare proprio attaccate alle parole, all'atmosfera, per vedere quello che riusciamo a cavarne. Quando i due occhi chiusi in una sera calda d'autunno, io ho tradotto gli occhi chiusi, ma in realtà è sbagliato, avrei dovuto tradurre i due occhi chiusi. Ora è abbastanza, la scena la possiamo immaginare, anche se non vi sono delle esplicite menzioni in questo senso, la possiamo immaginare così: c'è una spiaggia, siamo in riva al mare e i due amanti stanno sdraiati sulla spiaggia. È una scena che avremmo visto mille volte, di cui forse probabilmente anche voi stessi siete stati partecipi. Sdraiati sulla spiaggia a prendere il sole, tutto qua. Quando dico tutto qua, intendo dire che è una cosa molto semplice, perché tutti voi, chi ha il ragazzo, chi ha la ragazza, sarete stati sulla spiaggia, sdraiati a prendere il sole, no? Abbracciati, avvicchiati, così. Perché parla dei due occhi chiusi? Perché effettivamente sarebbe un po' ridicolo dire uno un occhio chiuso e l'altro no, evidentemente. Se c'è il sole, sono, ma lui vuol dire proprio, poteva anche dire con gli occhi chiusi. E i due occhi chiusi vuol dire proprio un immersersi completamente nell'atmosfera della, supponiamo, spiaggia, comunque nell'atmosfera in cui ci si trova. E quindi esattamente quando si è in un atto di intimità e si chiudono gli occhi, nel bacio per esempio, no? Io credo che nessuno di voi, nelle vostre pratiche osculatorie quotidiane, venga in mente di baciare il proprio ragazzo chiudendo un occhio e lasciando l'altro aperto, anche perché se questo accadesse e l'altro aprisse improvvisamente i suoi occhi, sarebbe una sensazione curiosa, penserebbe a un ammiccamento, penserebbe a una presa in giro, così eccetera. Quindi uno quando ha un momento di piacere chiude gli occhi. Parlo sempre dei piaceri che possono toccare più facilmente la vostra, ma anche la mia sensibilità, cioè i piaceri amorosi, ma vi faccio un piacere invece molto più alla portata di mano di tutti, perché non tutti possono godere di piaceri amorosi. Se tu hai molta sete e bevi, no? Ti potrà accadere, avendo molta sete, di bere con gli occhi chiusi, no? Cioè certe cose si fanno con gli occhi chiusi, perché vogliamo essere completamente immersi nella situazione, chiaro? Quindi ecco perché mette i due occhi chiusi. E adesso l'atmosfera, l'ambiente. Siamo in una calda sera d'autunno. Il meglio. Provate a stare su una spiaggia o comunque all'aria aperta con il vostro ragazzo in una sera del 15 gennaio, gelida, con la neve che assedia la battigia. Credo che sia abbastanza difficile, insomma, no? È estate, è possibilissimo. E qui comincia a essere interessante. Perché non è una sera d'estate? Perché non è una sera d'estate? Perché l'estate è troppo violenta, troppo forte come calori, mentre invece l'autunno, a patto che sia calda la sera, perché ci sono anche delle sere d'autunno assai fredda, l'autunno invece è, come dire, dà l'idea di un culmine, di un trionfo ormai della bella stagione, in cui il caldo si mantiene, ma ci sono delle promesse melanconiche di fine. E che sia necessario un senso di fine in questa poesia non v'è alcun dubbio. Se, questo è un esercizio che spesso vi ho consigliato, comunque vi consiglio, quando voi leggete un testo letterario e segnatamente un testo poetico, provate a fare questo giochetto, cambiate le parole. Se l'autore avesse detto cos'ha e non così, cosa sarebbe successo? Mettiamo che qui avesse detto che era una calda sera d'estate. Si sarebbe persa, come dire, la melanconia che il concetto di autunno ha in sé. Qui invece riesce a dare due concetti, il senso di malinconia e di fine, che certamente non c'è nel senso dell'estate, evidentemente, e il senso peraltro del calore, quindi melanconia e fine, e dall'altra parte calore, per cui parla di calda sera d'autunno. Quindi la donna si trova con lui in una calda sera d'autunno e agli occhi chiusi. E qui l'uomo fa il lavoro suo, cioè partecipa sensualmente alla donna. E cosa fa? Respira l'odore del suo seno. Dire respiro, se io ho un odore, qual è il senso che viene mobilitato con un odore? Lo chiediamo ad Angelica, qual è? Se io ho un odore, che cosa è che mobilito come senso dei cinque sensi? L'olfatto. Lui però qui non parla di olfatto, non dice annuso. E sentite come sarebbe stato più povero dire, mettiamo un verbo corrispettivo di annuso l'odore, sarebbe stato banale, scontato. Ma quando uno è molto innamorato, non annusa l'odore. Sapete che il sesso, l'olfatto è, come vi ho detto, il senso fondamentale della sessualità, no? Due persone possono magari credere di amarsi moltissimo, ma se non si incontrano anche inconsciamente con l'odore, non hanno una corresponsione di odore, non c'è niente da fare. Sono i feromoni, mi pare, per chi si intende di queste cose. Respirare vuol dire abbrancare, per così dire, questo odore in un modo più profondo. Io respiro l'odore. Afferrate questa sottigliezza. Respiro l'odore. L'odore del tuo seno. Nel corpo femminile sono due le parti, diciamo così, erotizzanti, sensuali. Una è la parte anteriore e l'altra è la parte posteriore, insomma. Ed entrambe possono essere, non voglio andare in elementi, come dire, scatologici, possono essere annusati e respirati. Ecco. Com'è questo seno? Questo seno è caldo. Quindi io respiro l'odore di un seno caldo. Ma che cos'è un seno? Un seno è una cavità. È una cavità. E che cosa ci richiama in mente la cavità del seno? Ci richiama in mente una situazione primordiale, una situazione infantile. Tant'è vero che il bimbo, quando viene allevato, il primo contatto che ha è per l'appunto con questa cavità che è il seno della mamma, che riproduce il grembo materno. Cioè sostanzialmente è una grossa topica questa della tana che accoglie l'essere umano, se mi intendete. No? Noi abbiamo bisogno di una tana che è l'utero, che è il seno, non qualcosa di respingente. Mi seguite bene? Non qualcosa di respingente. A questo riguardo vedremo una poesia fra poco, il concetto di vaso. Comunque noi abbiamo bisogno di qualcosa di concavo. Colgo l'occasione per dirvi che gli esseri umani sono, secondo una cosa che avevo scritto molto tempo fa, sono concavi o convessi. Convesso è qualcosa di penetrante e di respingente. Concavo è qualcosa che accoglie. Diciamo così, per la conformazione anatomica, il maschio è convesso, la donna è concava, onde l'incastro che madre natura ha previsto. Ma dal punto di vista psicologico, l'incontro fra convesso e concavo presenta affascinanti difficoltà, perché magari la donna concava per natura sconversa come carattere, e viceversa. E noi stessi abbiamo una parte in noi, psicologicamente, predominante, che non sappiamo se non nella pratica dell'esistenza, conversa o concava. Quando vedete due amici, amiche, che parlano fra di loro, vi sarà accaduto, forse voi stessi avrete vissuto questa esperienza, vi faccio questo piccolo incidence: una che parla all'altra e l'altra che ascolta. Di due amici, uno parla all'altro e l'altro ascolta. La persona che ascolta a volte si arrabbia un po' dentro di sé, pensando: ma perché questa mi deve fare tutte le sue confidenze e io non le posso fare? Perché io devo fare, come dire, questa parte concava e non posso anche prendermi il piacere di dire quello che so, che sono? Alcune persone sono concave e altre sono convesse. Alcune persone non parlano all'altro, ma parlano davanti all'altro. Non gliene importa assolutamente nulla di come sia l'altro. Tornando a questa poesia e a questa distinzione concavo-convesso, vedete che qui c'è l'immagine dell'uomo che sta dentro un grembo. Questo grembo è un seno femminile, ma questo grembo è un qualcosa di per sé confortante e riparatorio. Di che tana si tratta? Di una tana accogliente. Noi vogliamo che la persona concava in cui ci immergiamo sia però non fredda come un ghiacciolo, ma sia calda. Anche al di là della metafora, voi se parlate a una persona concava, ma questa vi ascolta freddamente, voi smettete di parlare. Se voi invece confidate la vostra vita a una persona concava, ma sentite che questa persona vi sta accogliendo, allora continuate nelle vostre confidenze. È chiaro il concetto? Quindi qui abbiamo una coppia. Lui si sta immergendo in lei come in una sorta di tana primordiale, di utero, dicevamo. Gli occhi sono chiusi per stare in questa atmosfera di intimità. Questo è un luogo d'amore straordinario, questa situazione che abbiamo rappresentato. Noi abbiamo spesso un'idea abbastanza, specialmente il maschio, sbrigativa e riduttiva dell'amore, pensando che la copula debba essere il risultato ultimo, immediato, e in questo modo molti si sono persi ogni piacere d'amore e si sono rovinati i rapporti, insomma. Ma lo stare insieme, l'imparare a stare insieme con il corpo e con la mente, lascia effetti nell'altro a volte più duraturi e più mirabili che invece delle copule veloci, anodine, fredde. E quante ne avvengono, nel segno, come dire, della palestra e della ginnastica, insomma. Questa bella situazione di incontro amoroso è una situazione che prelude alla scena che adesso vediamo. Perché lui, hanno gli occhi chiusi, vede, potremmo immaginare, pensando ai due seni, no? Lui ha la faccia immersa fra i due seni, e quindi si può immaginare che i due seni diventano due rive due rive di un corso d'acqua. Dove finiscono le rive di un corso d'acqua? Noi vediamo il fiume, vediamo le rive, non sappiamo dove finiscono. È un affascinantissimo mistero, no? Tu vedi un grande fiume, naturalmente non puoi nemmeno sognarti di vedere dove finiscano le rive. Ma lui vede queste rive che, ripeto, possono, che si svolgono Se dérouler vuol dire svolgersi, come un nastro che si svolga. E se noi vediamo un fiume con le rive, è come se effettivamente allungando lo sguardo vedessimo queste rive che lentamente si svolgono. Sono rive felici. Certo, perché i seni fra cui tu sei uomo immerso ti danno felicità e quindi queste rive non possono essere che felici. E guardate che questa situazione di felicità che stiamo vedendo parte da qualcosa che è legata a due fatti, alla carne e al sesso, ed è legata al concetto di tana, cioè io posso essere felice a partire da questa immersione nella concavità. D'altra parte, per ricordarvi quanto l'immersione nella concavità, che poi avviene nella vita in senso sessuale, ma sia fondamentale per noi nell'infanzia. Che cosa fa un bambino quando è triste, un bambino piccolo? Ma cosa fa un qualunque bambino? Vuole stare con la mamma, ma non con la mamma se la mamma tiene il bambino qui. Il bambino vuole stare attaccato alla mamma, al punto tale che, come sapete, i bambini si viziano, per cui se poi la mamma, per motivi logistici, abbandona il bambino, quello comincia a strillare, a piangere. Gli esseri umani, da bambini e a 80 anni, vogliono stare in una situazione protettiva. Avete mai pensato a come le persone anziane, e ne avrete probabilmente tra i vostri nonni, se ancora li avete, dove vivono? Se hanno una casa loro, vedrete che questa casa è piena anche nelle persone, non dell'Ottocento, insomma, ma è piena di oggettini, di ninnoli, di piccole cose che li contraddistinguono, di fotografie di persone care che non ci sono più. E che cosa sono queste specie di piccoli santuari che loro si costruiscono in casa, se non delle tane in cui rifugiarsi per proteggersi dalla durezza del tempo che passa, lasciando degli effetti sulle loro persone, perché facendoli sentire che stanno pian piano avviandosi verso la morte. Dappertutto, mi preme molto questo concetto, dappertutto noi ci scaviamo una tana, dappertutto, nella macchina che guidiamo, con gli oggettini che mettiamo. Guardate per esempio anche macchine di ragazzi che lo fanno inconsapevolmente, che si appendono, che so, un topolino, si appendono un pupazzetto di qua, di là, per rendersi accogliente il posto in cui sono, no? Noi cerchiamo dappertutto una concavità, dappertutto cerchiamo una tana. Da questa situazione di tana si comincia a immaginare la felicità. E queste rive che vengono immaginate sulla base dei seni sono abbagliate dai fuochi di un sole monotono. Siamo al sole, no? Quindi i seni sono abbagliati dal sole. Abbagliati dal sole non è un'espressione particolarmente originale, ma quello che è originale, quello che è bello, quello che è poetico, è l'aggettivo monotono. Perché il sole è sempre quello. Noi quando siamo al mare e prendiamo il sole, abbiamo bisogno di questa continuità di luce e di calore. E se riuscite a uscire fuori da questa situazione, noi quando siamo con una persona amica o cara, abbiamo bisogno della sua continuità di luce e di calore. Se una persona che ci è cara improvvisamente cambia modi con noi e diventa fredda o assente, noi ne sentiamo una trafittura al cuore. Gli diciamo: che cos'hai? Noi abbiamo bisogno Attenzione, abbiamo bisogno della monotonia del sentimento amoroso. Se voi arrivate a casa in questa vostra così tenera età in cui state ancora nell'ambito familiare e papà o mamma vi trattano diversamente, è una preoccupazione. È una preoccupazione. Noi abbiamo bisogno, la monotonia, che di per sé è un concetto noioso, brutto, no? Fastidioso. Ma ci mancherebbe altro che il nostro fidanzato, la nostra fidanzata, non fosse nel darci l'amore monotona. No, ma noi vogliamo sempre quella. Questo concetto della monotonia della cosa positiva è un concetto che avrebbe un'amplissima applicazione se avessimo tempo di parlare. Ma per esempio, insomma, se voi siete abituati al gusto di un cibo particolarmente buono, voi volete che sia riprodotto. Se voi prendete una buona carbonara, non so se sapete che cos'è una buona carbonara, e poi vi trovate nel ristorante a chiederla e chiedete al waiter, chiedete: vorrei una carbonara come l'altra volta. Ah, signore, dice il cameriere, dice: le è piaciuta l'altra volta? Sì, moltissimo, aveva un gusto, si ricorda quel gusto. Ma certo che me lo ricordo, è per quello che sono qui. Ebbene, varierò quel gusto. No, perché? Era così buono quello. Le farò sentire un nuovo gusto di... Ma non voglio, assolutamente. Assolutamente. Quindi questa bellezza della monotonia del positivo è molto importante. Fate l'amore con la vostra ragazza, no? E avete una sensazione che è inconfondibile e la ragazza vi dice: hai avuto un certo piacere questa volta? Bene, scordatelo, perché la prossima volta ci sarà una variazione. Ma non voglio variazioni, non voglio variazioni, è chiaro il concetto? Bene, e allora a questo punto il sogno è quello di un'isola pigra, cioè un luogo di separazione dal mondo. Va bene, di separazione dal mondo. Ma pigra, perché vedete, l'uomo è nato per lavorare e tutti qui noi presenti, anche se ci piace lavorare, eccetera, diciamo la verità, siamo tutti, chi vi parla compreso naturalmente, attratti fascinosamente dalla pigrizia. Dalla pigrizia. Tutti. Di fronte alla prospettiva del non far nulla anziché studiare, abbiamo un senso di profondo sollievo, magari unito a un senso di colpa, magari unito, no? Ma tutti, insomma, se ci dicono vai in pensione un anno prima, no? Se ci dicono tutti, ci dicono il professore non fa lezione, insomma, sono quelle grandi glorie inattese, paradisiache, che non hanno paragoni. Poi magari il professore ti piace, ma l'idea di essere libero per un'ora, non faccio un cazzo per un'ora, di chiacchierare. Quindi il fatto che il luogo della felicità sia un luogo pigro è estremamente importante. Un'isola pigra dove vi siano delle cose esotiche, quindi alberi strani, frutti saporiti, e qui ci sono uomini e donne. E come sono gli uomini e le donne esotiche? Gli uomini sono da copertina, da fotografia. Io non so se qualcuno di voi ha presente le pubblicità di due molto abili che sono Dolce Gabbana. Le avete presenti? Forse il nome non vi dice nulla. Sì. Come sono questi uomini? Insomma, sono chi ha inventato, insomma, sono persone. Come sono gli uomini? Che uomo volete? Se io chiedo ad Angelica che uomo vuole, Angelica, salvo il fatto che sia ancora più intelligente di quanto è, cosa direbbe? Che vuole un ciccione? Ma chi vuole un ciccione? Diciamoci la verità. Io conoscevo una ragazza molto intelligente che aveva amato un uomo grasso proprio, e io gli dicevo: ma com'è possibile? E dice: ho perso la testa per quest'uomo grasso. Ma dico grasso, lui lo volete snello, lei lo vuole snello, ma non snello con dei muscoli afflosciati, ma snello e vigoroso. Se si volta un momentino, vede quel ragazzo lì non è niente male, ha dei bicipiti discreti, non sono che, ma è senz'altro snello, si può intuire complessivamente che sia snello e vigoroso, e questo è l'ideale di una donna, no? E che cosa vuole?